giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Quando il mio amore tornerà da me, nel cielo una stella splenderà, s'è spenta da quando il mio sogno è svanito, da quando il mio amore fuggì da me. Ci sono indagini che non si possono lasciare solo alla storia. L'inchiesta sulla morte del cantautore e poeta Luigi Tenco è una di quelle. Ecco perché oggi il giallo e nero torna sulla notizia per la seconda volta, con nuovi indizi e inquietanti particolari. Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima, un passo dopo l'altro, la stessa vita. Festival di Sanremo, sera del 27 gennaio 1967. Il corpo senza vita di Luigi Tenco viene trovato nella camera 219 della dépendance dell'Hotel Savoy. La versione ufficiale parla di suicidio. Prima di morire scrive con grafia incerta un bigliettino. È un duro atto d'accusa contro la spietata macchina del festival. Faccio questo come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione. Sandro Ciotti, popolare radiocronista scomparso lo scorso anno, Luigi Tenco lo conosceva bene. Io assolverei il mondo della canzone da quanto è accaduto. Per quanto c'è un mondo dove la provvisorietà costituisce una chiave indubbiamente importante, invadente, un cantante intelligente si rende conto appena entra in questo ambiente che la provvisorietà è appunto il connotato forse più ricorrente del mondo della canzone. E tuttavia non ritengo che Tenco abbia fatto quello che ha fatto solo perché ha perduto a Sanremo. Sarebbe una spiegazione prima di tutto troppo semplicistica e poi che offenderebbe l'intelligenza che senza dubbio Tenco aveva. C'è piuttosto da dire questo, che a prescindere dall'ambiente nel quale Luigi ha vissuto, lui ha cercato nel modo più sbagliato e più doloroso, più impietoso verso se stesso e gli altri, la strada per raggiungere una serenità che ha cercato invano per 29 anni. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Ma qualcosa non quadra fin da subito. Nella versione della polizia Luigi Tenco si spara con una Walter PPK. Secondo lo scrittore Aldo Fecatelli Colonna le cose però non stanno così. È ormai accertato, anzi documentato, più precisamente dal dottor Massimiliano Burri, perito balistico presso il Tribunale Penale di Roma, che la pistola che uccide Luigi Tenco è una calibro 22. La calibro 22 è la pistola che viene ritrovata sotto il cavallo del cadavere di Luigi Tenco. Non è possibile in maniera più categorica che a sparare sia stata una PPK 765, perché quest'arma produce quello che in gergo si dice, in gergo forense, medico legale, uno shock idrodinamico. Tutte le persone, Dossena in primis, che entrano nella stanza e vedono Tenco seduto, vedono la parte sinistra del capo. La parte sinistra del capo è perfettamente pulita, praticamente Tenco sembra che stia dormendo. La polizia americana tra l'altro asserisce che la calibro 22 è una pistola eccezionale per un atto terroristico. La cosa importante da dire è perché non si udì lo sparo, perché questo tipo di pistola fa un rumore secco molto ben dissimulato ed ecco perché Ciotti non lo sentì, perché il colpo era anche attutito dalle prove dei compagnoni della chanson che stavano provando la loro canzone per il giorno dopo. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Tutto avviene in un momento particolare della storia del paese. Università in subbuglio, scioperi dei lavoratori nelle grandi fabbriche del nord, movimenti popolari che scuotono il mezzogiorno. Renzo Zanardi è un appassionato di Luigi Tenco. Lui si è messo sulle tracce dei possibili moventi dietro alla morte del cantautore. Erano gli anni 60, gli anni in cui imperversava il Sifar di De Lorenzo, che schedò almeno 157.000 italiani. Negli anni successivi è emerso da atti giudiziari il coinvolgimento dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno nel depistaggio di inchieste sulle stragi e sul terrorismo politico. Negli ultimi mesi di vita Tenco era stato ripetutamente minacciato di morte, lo ha sempre sostenuto suo fratello Valentino e in diverse interviste anche il suo discografico Paolo Dossena. Fu proprio per paura che Tenco acquistò una pistola. Perché non furono fatte indagini dopo una morte così violenta? Chi doveva farle? Le indagini doveva farle il vice commissario Rigo Molinari. Oggi sappiamo che Molinari è stato iscritto alla Gladio italiana e ancora un sito www.nuovogladio.it e alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, con tessera numero 767. In una dichiarazione alla commissione parlamentare strage sostenne di essere stato un pupillo di Francesco Umberto D'Amato, il capo dell'ufficio degli affari riservati del Viminale. Perciò Molinari era un pezzo da 90, non un piccolo e sprovveduto funzionario di provincia senza mezzi. Credo che la scarsità o la mancanza di indagine permise di trasformare un probabile omicidio in un suicidio e così di salvare il Festival di Sanremo con tutti i suoi interessi collaterali. Così come è emerso anni dopo da numerose inchieste giudiziarie e sentenze passate in giudicato. Se così non fosse stato, perché Molinari non tentò di recuperare l'indagine facendo almeno un'autopsia riparatrice? Indagini partite male, proseguite ancora peggio. Spostamento del cadavere di Luigi Tenco, sottrazione dei corpi di reato, depistaggi, false testimonianze. L'inchiesta sulla sua morte è troppo piena di misteri rimasti irrisolti, come spiega il criminologo Francesco Bruno. Ce ne sono tanti di misteri, purtroppo le indagini allora vennero fatte molto approssimativamente, forse perché si partò dall'idea che era un suicidio apparente. Prima del grosso errore non venne fatta un'autopsia, quindi non sappiamo, per esempio, non abbiamo recuperato il proiettile che era rimasto incluso nella testa di Luigi Tenco e quindi non sappiamo esattamente, non abbiamo la sicurezza che quel proiettile sia partito da quella pistola, anche perché le pistole in gioco erano diverse, non ce n'era una sola, anche perché il numero dei proiettili che erano stati esplosi era diverso, non è stato esploso un solo proiettile e non sono state fatte indagini scientifiche praticamente su nulla, non è stato visto per esempio sulle mani del cantante che erano assolutamente pulite, non è stato visto se c'erano tracce, come dovrebbe dovuto essere, se avesse sparato lui, di residui da sparo, il cosiddetto stub. Ancora oggi si fanno spesso errori di questo tipo e molte volte io mi sono occupato di molti suicidi che sembravano dei suicidi e che nascondevano invece o l'omicidio o comunque molte cose da chiarire. La notorietà del personaggio avrebbe dovuto in qualche modo perlomeno spingere ad indagini più accurate, però non si fece. E anche oggi mi pare che nonostante questi aspetti siano noti, non si proceda. È sempre un po' doloroso andare a rivedere gli errori del passato, soprattutto in casi eclatanti, così importanti. L'inchiesta bisognava riaprirla, era archiviata, insomma, l'inchiesta non c'è mai per quando si sospetta un omicidio, non c'è mai un limite di tempo, no? Si può riaprire l'inchiesta anche dopo 50 anni. Adesso il problema è proprio quello, cioè un atto formale di riapertura di questa inchiesta pone evidentemente dei problemi, perché non si riesce a fare. Vedrai. E noi oggi vi lasciamo con un'intervista del 1967, poco prima della sua morte. Cambierà. Quelle di Luigi Tenco sono parole dure, che non ammettono interpretazione alcuna. Chiedersi perché non si scrivono tutte canzoni così romantiche, senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare. Non l'hanno fatta questa domanda, ma il fatto è questo, che sui giornali, alla televisione, alla radio, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano nell'individuo determinate reazioni, come io sono individuo, gli altri, per cui anche in me suscitano queste reazioni. Siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per fare, finiscono per poi essere intrecciate in una canzone. Vedrai, vedrai, non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Thank you.